I lavori di domani di Anna Marino. Oggi parliamo di una figura manageriale che ha il compito di potenziare la capacità innovativa di un'azienda e dell'offerta che questa porta sul proprio mercato, in modo da renderla sostenibile e cioè solida nel futuro, grazie proprio al suo lavoro di innovatore. Chief Innovation Officer. Questo significa in primo luogo introdurre all'interno dell'organizzazione tutte le modalità e gli strumenti necessari per avere processi interni più efficienti, grazie all'applicazione di iniziative di innovazione e trasformazione digitale, la sostenibilità digitale, che contribuiscano nel tempo a migliorare gli assetti organizzativi e produttivi, incidendo positivamente su modalità, qualità, costi e tempi. In secondo luogo, il Chief Innovation Officer, questa è la figura di oggi, si deve occupare di creare le condizioni per cui all'interno dell'organizzazione possano nascere e poi crescere, con il contributo di tutti, nuove idee e opportunità, nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi modi di posizionare l'azienda sul mercato, il tutto con l'obiettivo di rendere migliore, più innovativo e orientato al futuro quello che l'azienda offre al suo mercato di riferimento. E noi, come sempre e come per ogni puntata del Lavoro di Domani, sul sito di Radio 24, alla pagina programma, vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro, Chief Innovation Officer, segnaleremo subito app, siti, link utili su cui cliccare per avere le informazioni, la formazione, perché no, dritte sulle opportunità di questa figura, che vi possiamo fornire grazie a Massimo Canducci, Chief Innovation Officer, che ci spiega in che cosa consiste il suo lavoro. In una grande azienda IT come la nostra, chi si occupa di innovazione ha due grandi filoni da seguire. L'innovazione da portare all'interno della propria organizzazione per migliorare la capacità di offerta e quella da proporre ai clienti per fare in modo che con le iniziative di innovazione si possa generare valore per il cliente. Questo attraverso la trasformazione digitale dei processi, le tecnologie innovative, l'aumento dell'efficienza e l'attivazione anche di nuovi modelli di business. Portare l'innovazione all'interno della propria organizzazione significa innanzitutto cercare di essere il più possibile preparati sui temi delle tecnologie emergenti e della loro applicabilità nel tempo all'interno di scenari di business che ipotizziamo nel futuro possono essere plausibili, ma anche portare in azienda nuovi strumenti e nuove modalità anche organizzative che consentono di aumentare l'innovatività complessiva dell'organizzazione e della sua offerta verso il mercato. Il tuo lavoro è l'innovazione. L'innovazione però messa in pratica in ogni modo, quindi messa in pratica non solo a partire dalle idee, cioè non solo idee, non solo semi, insomma, di queste idee, ma anche realizzazione, progetto dalla A alla Z. Certamente, perché l'innovazione, noi diciamo che l'innovazione è il processo che genera valore partendo dalle idee, quindi le idee ce le devi avere all'inizio, però poi c'è il duro lavoro di execution che ti porta poi ad arrivare a dei risultati e ti porta a generare il valore vero per il tuo cliente, naturalmente. La tua giornata tipo qual è? Insomma, è ovviamente anche condizionata in questo periodo dall'emergenza sanitaria che viviamo, ma comunque i compiti e l'innovazione diventano ancora più importanti, forse anche più strategici, e anche il tuo ruolo, no? Per fortuna non esiste una giornata tipo, sennò mi annoierei a morte, però sono comunque diverse attività che vengono svolte senza però essere vincolati dentro schemi più o meno rigidi. Quello che cerco sempre di trovare è il tempo per fare scouting di tecnologie emergenti, determinare il livello di maturità nei confronti dei mercati, attivare discussioni su questi temi con i miei collaboratori. L'obiettivo è capire se, come e quando queste tecnologie saranno abbastanza mature per diventare parte di quei mattoni con cui costruiamo le nostre piattaforme digitali in modo da essere sempre pronti. La tua giornata tipo non esiste, però esistono, come dire, dei compiti, dei ruoli, dei collegamenti, dei link che fai con diversi settori dell'azienda. Esatto, dei task da compiere. L'obiettivo, come dicevo, è capire se e come e anche quando queste tecnologie saranno abbastanza mature per diventare parte della nostra offerta, sostanzialmente, con cui costruiamo le nostre piattaforme digitali. Una parte importante delle giornate è dedicata ai processi di innovazione che attiviamo con le nostre business unit, oppure a costruire percorsi personalizzati di coinnovazione con i nostri clienti. A volte con le persone che lavorano con me abbiamo un'idea per qualcosa di innovativo e iniziamo a lavorarci e con entusiasmo, come se avessimo un nuovo giocattolo da provare. Dipende sempre dall'azienda in cui ci si trova. L'azienda in cui ti trovi tu quali progetti, diciamo, ha accolto e quali tipo di diciamo innovazione? Noi operiamo su 1400 clienti nel mondo, su tutti i mercati sostanzialmente, e cerchiamo su ogni singolo mercato di portare un po' di innovazione. E diciamo che ogni progetto che facciamo ha qualcosa di innovativo, perché altrimenti non potremmo essere sul mercato oggi, in un mercato così complesso come quello di oggi. Tanto per farti un esempio, per tutti, abbiamo reagito alla pandemia di coronavirus con alcune soluzioni e piattaforme digitali che per fortuna stanno servendo a contenere i contagi, per esempio quella che stiamo utilizzando in Regione Veneto, oppure sempre come contrasto alla pandemia abbiamo realizzato dei wearable, dei dispositivi portatili che sono in grado di determinare se persone che operano all'interno di uno stabilimento, per esempio di un ufficio, si avvicinano troppo tra loro, e questo ci consente di mandare a loro delle vibrazioni, dei messaggi, degli alert per fare in modo che non si avvicinino troppo e quindi mantengano, diciamo, le distanze. La cosa importante è un po' capire le skill che sono state sviluppate da te, dove ti sei formato e ovviamente quelle necessarie per la tua figura. Io ho una laurea in informatica che ho conseguito all'Università di Torino ormai molti anni fa, poi a 10 anni di distanza ho deciso di prendere una seconda laurea in tecnologia della comunicazione, questa volta a Milano. Però in realtà la formazione permanente è un punto chiave per chi fa il mio lavoro. Per fortuna viviamo in un'epoca in cui l'accesso alla conoscenza è abbastanza facilitato dalle tecnologie, quindi si può scegliere di seguire anche corsi universitari senza bisogno di spostarsi da casa. Una delle cose che ritengo molto formative, soprattutto su tematiche di innovazione e per comprendere meglio il futuro, arriva però sicuramente dall'insegnamento in università. Da anni insegno sia all'Università di Torino sia all'Università di Pavia, e il confronto con gli studenti è sempre un elemento estremamente utile che porta a grande valore. Ecco, è importante anche dire agli studenti quali sono, diciamo, i percorsi necessari per arrivare a svolgere il tuo ruolo. Certamente, ci sono sicuramente due ambiti di cui bisogna essere appassionati e quindi formarsi di conseguenza. Uno è la tecnologia e l'altro è la gestione dei processi di innovazione, cioè la capacità di produrre del valore anche tramite l'uso intelligente della tecnologia. Per fortuna negli ultimi anni sono nati, a parte i percorsi tradizionali ingegneristici, per esempio, specialistici sulle tecnologie, sono nati dei percorsi specifici sulla gestione dell'innovazione, una tematica che viene ritenuta fondamentale perché è l'unico vero modo per innovare in un'organizzazione è progettare e gestire appositi processi di innovazione. Questi percorsi sulla gestione dell'innovazione si possono seguire direttamente a livello universitario, quindi seguendo per esempio corsi di innovation management all'università, oppure dopo la laurea frequentando appositi master post laurea dedicati a questo. Ecco, molto importante è anche capire qual è la forchetta di guadagno per il tuo lavoro anche a seconda della seniority. In questi casi dipende da un sacco di fattori naturalmente, perché ci sono molti livelli all'interno delle organizzazioni aziendali per le persone che sono appassionate di innovazione e che si occupano di innovazione. Tendenzialmente il livello retributivo è quello del middle management e dipende però questo naturalmente dal tipo di organizzazione, dal tipo di mercato, dall'esperienza accumulata negli anni eccetera. Se invece si arriva a guidare l'innovazione di tutta l'organizzazione, allora il livello retributivo è quello tipico del top management. È un lavoro che ritieni molto ricercato, soprattutto adesso e soprattutto per il futuro, e dove si può trovare secondo te? È un lavoro fondamentale, abbastanza ricercato in questo momento, non ancora troppo, anche se diciamo ormai si dice che le persone che si occupano di innovazione siano fondamentali nelle organizzazioni, anche se poi però in concreto non è facilissimo trovare persone che facciano il mio mestiere nelle grandi organizzazioni. Tuttavia è una posizione fondamentale per tutte le organizzazioni che vogliono crescere ed essere pronte per affrontare il futuro e non occuparsi invece unicamente del presente. È l'ora di prendere appunti, in ogni caso prendete carta e penna, il vostro device, chiunque di voi ha qualcosa su cui appuntare le indicazioni e i siti utili. Riassumiamo con appunti quali indicazioni di app e siti per formarsi e informarsi per la ricerca del lavoro. Bisogna seguire che cosa dicono gli analisti più importanti sui temi dei mercati e delle tecnologie. Tra questi a livello internazionale non posso che segnalare Gartner e CB Insights, che sono sicuramente il top. in Italia un buon lavoro viene fatto invece dagli osservatori del Politecnico di Milano. Qua si possono trovare davvero tantissime risorse. Su nuovi scenari e visioni del futuro segnalo Singularity University, di cui faccio parte, tra l'altro, e Futurism, che è un sito su cui si possono trovare cose molto interessanti per capire come potrebbe essere il futuro. Buoni spunti, diciamo, un po' più generici, ma comunque interessanti, arrivano anche da Ars Technica, TechCrunch e The Verge. Su temi specifici dell'innovazione posso segnalare invece Board of Innovation e i libri di Joe Tidd e John Bessant, che sono bestseller internazionali su questi temi. Esistono poi un sacco di corsi online, anche gratuiti, su tutti i temi tecnologici e anche sui temi della gestione dell'innovazione. Si possono trovare per esempio su piattaforme come Coursera o Udemy, e qua si possono trovare anche addirittura corsi accademici completi su tematiche tecniche e tematiche di innovazione, che sono rese disponibili gratuitamente per volta da molte università nel mondo. Un ponte tra diciamo impresa e università è sempre auspicato, quindi hard skill e soft skill devono essere collegate, anche diciamo le qualità e i talenti personali devono essere assolutamente importanti. Sì, assolutamente. Noi abbiamo assunto tra il 2016 e il 2019 4.000 persone. Pensavamo di poterne assumere altre 1.000 nel 2020, ma purtroppo la cosa non è stata possibile a causa della pandemia. Contiamo di ricominciare nel 2021 con assunzioni, ed è anche per questo che cerchiamo di creare delle relazioni fortissime con le università in modo da cogliere i talenti migliori. Ad esempio c'è la scuola Sant'Anna, la scuola normale di Pisa, la scuola superiore di Pavia. Quindi la parola chiave per la tua figura, per il Chief Innovation Officer, qual è? La parola chiave è cambiamento. Mai come adesso il cambiamento è segno di sostenibilità, cioè di continuità verso il futuro, quindi anche la tua è una professione sostenibile. Noi siamo molto più contenti quando riusciamo ad attivare iniziative di innovazione che portano un impatto vero in termini ambientali e in termini sociali. È per questo che i progetti di innovazione più belli, quelli a cui siamo più affezionati, sono quelli che davvero producono valore anche per la collettività.